Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, serata non decisiva ma certamente significativa, quella di Champions. Ce la presenta come al solito Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti, terza partita, siamo non ai verdetti naturalmente, i verdetti a questo punto possono solo essere negativi, però visto che ci sono solo tre squadre a punteggio pieno, diciamo che se queste tre restassero a punteggio pieno anche dopo stasera e domani, credo insomma che almeno il secondo posto, anzi senza credo, almeno il secondo posto l'avrebbero ipotecato, però penso anche che verdetti veri cominceremo ad averli dalla quarta, cioè sì, dalla prima di ritorno, che sarà tra l'altro uguale a queste due serate, solo a campi invertiti. Certo, la famosa quarta giornata speculare rispetto alla terza. Dunque c'è molta attesa, è molto caricata da tutti i punti di vista la sfida tra Napoli e Bayern per ovvie ragioni di spettacolarità e di richiamo, però mi pare che in ottica di classifica, se parliamo di italiane, sia più pesante quella che si gioca a Lille per l'Inter di quanto non sia quella con il Bayern per il Napoli. Sì, bisogna incrociare tutto con i risultati delle avversarie, nel senso che è ovvio che Napoli-Bayern, per il prestigio del Bayern, per la cornice di pubblico che sa dare il San Paolo, per il fatto che il Napoli comunque è una grande potenza adesso del calcio italiano, è una partita che si vende da sola. È evidente però che per come è partita l'Inter, cioè con una sconfitta, poi parzialmente rimediata, evidentemente con una vittoria, e anche per la forza del Lille che gioca in casa e quindi ha un'occasione notevole per sorpassare l'Inter e soprattutto, direi soprattutto questa, vista l'Inter di questo periodo che è un Inter in calo e un Lille in crescita, io credo che la partita del Metropol sia molto interessante, anche perché penso che al di là del risultato ci debba dire un po' di che caratura è fatta l'Inter. L'Inter è quasi sempre uscita dai guai in partite come queste, cioè partite come queste che potevano metterle una pietra sopra l'hanno esaltata. È vero. Le partite in passato, quella di Kiev nei tempi di Mourinho, ma anche altre volte l'Inter è sempre riuscita a tirar fuori qualcosa in più, anche di misura, anche in qualche modo, ma è sempre riuscita a venirne fuori. Credo che Ranieri chieda questo questa sera, più che una prestazione convincente dal punto di vista del gioco. Penso che Ranieri sia il primo a sapere che l'Inter non potrà essere convincente sotto questo profilo. Credo che chieda una vittoria d'esperienza, una vittoria di quelle che tu porti a casa perché magari hai 50 presenze in questa competizione, 50 magari no, insomma, che hai molte presenze in questa competizione, e questo, siccome ha ancora un peso, è un peso importante, il Lille non ha una grande tradizione europea, penso che insomma, l'ottimismo possa indurre ad aspettarsi questo da parte dell'Inter. Sì, sono di queste due squadre, una è praticamente sconosciuta in Europa o comunque per l'Europa che conta, l'altra il Bayern, mi sembra che in questo momento sia forse la squadra europea più in forma in assoluto, più del Barcellona, più del Real, forse sì, non più del City, insomma si può discutere e questo mi pare che dia insomma, un pizzico di attrazione in più, no? Questa sfida di San Paolo che già non avrebbe bisogno, Guarda, il Bayern non è molto diverso da quello di Van Gaal, è diverso perché non prende gol ed è evidente che non prendere gol significa, soprattutto con un attacco come quello del Bayern, vincerle quasi tutte. Ricordo che il Bayern di Monaco ha preso un solo gol nella sua stagione ufficiale, era il 7 di agosto, si giocava l'Allianz Arena contro il Borussia Mönchengladbach e tra l'altro il gol di De Camargo è anche nato da un errore di Neuer. Tra l'altro la cosa curiosa è che Neuer poi non ha più preso gol, ma non ha dovuto quasi mai compiere grandi parate. No, il vero Neuer non si è ancora visto. È vero, è vero. A me ha ricordato un po' il miglior Milan di Sacchi, quello che non faceva quasi tirare gli avversari. Poi il Milan di Sacchi giocava meglio, evidentemente, però anche questo è un dato importante. Cioè, ovviamente adesso tutti parliamo di Mario Gomez, di tutti i gol che fa e insomma del fatto che sia realmente esploso. Parliamo della grandezza di Ribéry, parliamo secondo me anche e soprattutto di due giocatori di grandissima caratura, e sono un 1989 e un 1990, stiamo parlando di Toni Kroos e di Thomas Müller, e poi però parliamo di una cintura di centrocampo che protegge tantissimo la difesa, perché la difesa non è fatta da a quattro fenomeni, è fatta da quattro buoni giocatori e un buon portiere, però evidentemente è molto ben protetta, i palloni non arrivano dalle parti di Neuer, e questo, diciamo che in maniera molto elementare, molto scolastica, è già un buon modo di impostare la difesa, cioè non far tirare gli avversari, mi sembra già un bel punto di partenza. Sì, perché sì. Poi Lahm lo conosciamo, Lahm gioca da 200 anni, Bad Stuber è quello, è forse il migliore dei quattro, Van Buyten non è a livello dei grandi difensori centrali europei, Rafinha l'abbiamo visto a Genova, adesso sta giocando certamente meglio, ma è uno votato soprattutto all'offesa che alla copertura, e quindi è quasi inspiegabile. Credo che Heinkens abbia dato una regolata all'atteggiamento dei giocatori, perché comunque sono gli stessi dell'anno scorso, non ha cambiato tanto il Bayern. Senti, prendiamo una squadra, cioè Manchester United, per usarla come tappa di passaggio verso poi un esame di campionati dove ci sono molti spunti interessanti. Lo United, almeno in teoria, è molto in teoria, però qualcosina rischia in questo girone. Sì, ma rischia perché non ha ancora vinto e soprattutto perché si è fatto una frittata addosso contro il Basilea, rischiando addirittura di perdere e poi portandola a casa. Per fortuna, perché perdere quella partita sarebbe stato un disastro. Adesso gioca in trasferta contro l'Otelul Galati, l'Otelul ha perso sia col Benfica che con il Basilea, non ha mai sbracato, nel senso che ha perso 2-1 e 1-0 in casa, però io credo anche che il Manchester United questa partita l'abbia preparata per vincerla, nel senso che, questo è normale, ma la partita contro il Liverpool, per motivi, se vuoi, anche un po' più ampi, cioè Rooney non è stato fuori per turnover, ma è stato fuori perché probabilmente ancora un po' emotivamente scosso dall'espulsione rilevata in Montenegro e dalla lunga squalifica che può anche costargli l'europeo, il Manchester United, che abbiamo visto non benissimo peraltro a Liverpool sabato, è un Manchester United che era molto mascherato, per cui la mia sensazione è che queste partite Ferguson non le sbaglia mai, ma neanche i suoi giocatori questa volta la sbaglieranno, e quindi il Manchester la rimedierà, e potendo contare sul fatto che una delle due tra Basilea e Benfica si deve fermare se perde, o comunque al massimo possono prendere un punto per una, credo che non sia così astruso pensare che questa sera il Manchester United possa essere in testa a questo girone, seppure in coabitazione con le altre due. Così come stasera il Villarreal potrebbe essere, se non ancora aritmeticamente a casa, certamente abbastanza vicino, visto che gioca sul campo del Manchester City. Il City è ridiventando capolista dopo addirittura, insomma, era dal 77-78 che non era in testa dopo 8 giornate, leggo nelle note statistiche di Franco Piantanira, era in coppia quella volta col Nottingham Forest, pensate come passa il tempo, ma per trovarli da soli in testa alla classifica dopo 8 giornate bisogna tornare alla stagione 34-35, quindi un evento epocale. Eravamo al City, la nuova capolista del campionato inglese, che stasera ha la possibilità di liquidare in coppa in maniera praticamente definitiva il Villarreal, di tornare in corsa a danno del Napoli, o eventualmente, aspettando poi il confronto diretto del San Paolo, o eventualmente del Bayern, questo lo si vedrà, ma intanto per l'appunto ha preso la testa della Premier League e mi pare che tutti quei dubbi che più o meno travagliavano i tifosi, Mancini sì, Mancini no, siano a questo punto abbastanza superati. Sì, abbastanza superati, verranno superati del tutto quando Roberto Mancini riuscirà a infilare una serie di scontri diretti vincenti. Adesso scontri diretti quest'anno non saranno tantissimi, saranno il derby di domenica contro lo United, e questo secondo me ci dirà molto, e poi la sfida contro il Chelsea. Certo. Credo di sì, nel senso che Mancini ha speso molto, Mancini ha una grande squadra in mano, Mancini è un eccellente allenatore, quindi tutto mi porta a pensare che sia l'anno buono, che sia la volta buona. Adesso poi ci si può sempre sbagliare, il titolo penso che non andrà via da lì, dalla città. La città secondo me se lo tiene, anche se il Chelsea resta un'incognita, ma il Chelsea non mi sembra una squadra in grado di fare uno strappo forte. Delle due in questo momento è il City quella che si lascia prestare, perché ha un tasso di classe, soprattutto in attacco, notevole. Però senza farci troppo fuorviare, perché poi il Manchester City adesso è diventato una squadra molto solida anche dietro. Giocatori come Lescott, che ogni tanto si prendevano delle licenze, adesso mi sembra siano arrivati a un buon rendimento. Lo stesso Kompany bene, Micah Richards bene, quindi insomma, se non, a parer mio, se non succedono cose strane di gestione interna, cioè se Mancini non commette errori di gestione interna con lo spogliatoio, il titolo quest'anno lo prende lui. Sono abbastanza convinto di questo. O perlomeno è competitivo fino alla fine. Ah, questo sicuro. Certo, questo senza sicuro. Ovviamente. Mi stupirei, sarebbe una grande sorpresa se non arrivasse fino alla fine tra i primi. Sarebbe una grande sorpresa e credo che Mancini non allenerebbe più il City se dovesse accadere questo. Fabio, parliamo di gol europei, che è un po', facendolo in Italia, un po' come parlare di corde in casa dell'impiccato, no? Visto, insomma, il pomeriggio di domenica è stato il più triste della storia. Sì, a tratti imbarazzanti. È vero che il pomeriggio domenicale calcistico è stato un po' alla volta negli anni depauperato, no? dalle sfide sì. più importanti per le ragioni che conosciamo, però insomma, arrivare ad avere 11 squadre su 12 che non segnano, segna solo la 12ª, che è l'ultima in classifica in quel momento e quindi è la meno attesa, no? E segna questi due gol e le altre vanno in bianco. Quella che stava giocando peggio, forse. Che stava giocando peggio. Mi dicono che a Novara fosse Novara quella che poteva andare. Sì. Quindi segna il Bologna e tutto finisce lì per il pomeriggio. I gol si trovano altrove, un po' prima e un po' dopo. Mentre all'estero accadono cose. So, Higuain arriva alla terza tripletta nelle ultime tre partite giocate, con Espanyol, Betis e una con il Cile, no? Con la maglia argentina, che è un record storico. Tre triplette di fila, non so io a quando possono risalire. No, certo, ma tra l'altro ci sono i due gol di Messi con il destro, c'è una prodezza, un paio di prodezze di Van Persie con l'Arsenal. Poi io già prevengo i messaggi che ti stanno per arrivare, ti scriveranno, ecco, i soliti esterofili, ma non è vero. Nel senso che ti scriveranno... No, è vero. All'estero nel mio caso tanti. È vero. Sì, no, ma ti dico... Sì, ma pure io, ma all'estero segnano tanto perché ci sono difese ridicole, sarà mica un campionato la Liga dove vincono, sì va bene, non sarà un campionato, sarà una gara a due, però ci si diverte parecchio e con qualche piacevole sorpresa, perché mi sembra che il Levante di questo inizio di stagione, lo stesso Malaga anche se è sculacciato dal Levante, ma anche l'Athletic Bilbao del Loco Bielsa stiano dando qualcosa in più alla Liga. Cioè ecco, la Liga quest'anno o la vince il Real o la vince il Barça, mi sembra abbastanza chiaro, però credo che rispetto all'anno scorso ecco non ci sarà più il percorso netto, cioè qualche trappola io trovo che Barça e Real potrebbero anche trovarla. Fabio, questi messaggi però non arrivano, però oggi vedo il display leggermente dormiente, quindi potrebbe essere, forse c'è qualche problemino di ricezione, però facciamo così, anticipiamolo questo, no? Questo eventuale contraddittorio e magari anticipiamolo con un appiglio storico, che è questo, per esempio, uno dei possibili. Tu ricordi che si diceva anticamente, parliamo di anni 50, che il risultato perfetto era lo 0-0. Annibale Frossi, bravissimo, un grande tecnico, l'ala destra con gli occhialini, tra l'altro. Giocava con gli occhiali. Sì. Alle Olimpiadi di Berlino del 36, signor giocatore, poi è diventato un grande tecnico negli anni 50. La cassa da risonanza, questa teoria, gliela fece Gianni Brera, che era il teorico della grande scuola italiana difensivista. Cosa succede? Succede che quando allora le partite finivano 0-0, o parecchie partite finivano 0-0, era merito o limite, se vogliamo, di difese fortissime, molto protette, eccetera, perché allora erano gli anni del catenaccio e il calcio italiano era abbastanza povero di talenti, di campioni, erano gli anni in cui si finiva fuori come ramazze ai mondiali e da tutte le altre parti. Il problema di adesso è che le nostre difese, non dico che siano ridicole per non mancare di rispetto a nessuno, insomma, tanto, tanto solide non sono, e quindi quando finiscono 5 partite su 10 0-0 come domenica, non è più merito della difesa, è colpa degli attacchi. Guarda, c'è un concorso di colpa, secondo me, forte dell'attacco in questa misura, perché grandi attaccanti o giocano poco ultimamente, parliamo di Del Piero, parliamo di Totti, sì, parliamo di giocatori che hanno sempre segnato tanto, Toni ad esempio è uno che può piacere o non piacere, ma ha sempre fatto un sacco di gol. Sono andati via giocatori che segnavano, Sanchez, Pastore, cioè quando tu perdi questi che ti vanno a garantire un certo numero di gol, non è un caso che dalla prima giornata di campionato a questa ci siano già stati 11 0-0 in Serie A? Cosa che non si verifica da un bel po' di tempo ed è un dato che si è triplicato rispetto a 3-4 stagioni fa. Poi magari la prossima domenica segneranno 50 gol certo, e raddrizzando un pochino la media. Questo ci sta. Esiste anche un fattore casuale, secondo me, cioè perché non mica si erano messi d'accordo per far finire tutte queste partite 0-0. Il discorso è più ampio ed è complessivo, perché con tutta probabilità in un momento nel quale pareggiare non è più premiante, ma ormai da molti anni, è evidente che le squadre cercano sempre di vincere, non si accontentano del pareggio. Se cala la quota qualitativa degli attaccanti, poi i gol, perché non ci sono neanche dei fenomeni in porta, nel senso che non è che abbiamo adesso 10 o 15 grandi portieri, no. Mi sembra che i portieri siano discreti, su poco più che sufficienti complessivamente. Non è più il periodo nel quale l'allenatore della nazionale fa fatica a scegliere il portiere perché ne ha 4 o 5 buoni. Adesso il portiere, il commissario tecnico, non fa fatica perché ne ha uno molto più forte degli altri, che è Buffon. Però ecco, il dato sulla qualità di portiere più difesa non è molto più alto, anzi secondo me è più basso rispetto ad anni fa. È clamorosamente più basso il valore degli attaccanti. Se tu consideri che i grandi attaccanti, se li vogliamo misurare non a parametro di gol realizzati, perché sarebbe troppo facile, misuriamoli a parametro di valore di mercato, vanno tutti altrove. Cioè le nostre squadre cercano in estate di prendere Dzeko, di prendere Tevez, di prendere Tizio Caio Sempronio o Giuseppe Rossi e così, e poi invece li prendono gli altri oppure non si muovono. Questa non è un'opinione, questi sono fatti. No, questi sono fatti, magari non è neanche colpa di nessuno, però accade, oggettivamente poi, accade. Poi a gioco lungo i numeri si piano piano si compenseranno, perché poi il campionato è lungo e è ovvio che in questo periodo parliamo di questo perché la notizia è questa. Poi magari domenica prossima ne fanno 50 e viva. Certo. E chiuderei, visto che di gol stiamo parlando e che la lingua batte appunto dove il dente duole, di queste 100 partite con il Real di Cristiano Ronaldo, che non ha segnato mi pare sabato, ma è comunque a quota 95 gol in 100 partite, sì. Mentre Messi sulle ultime 100 partite in Barcellona ne ha segnati 103. Sì, c'è un altro centenario stasera, che è José Mourinho, che fa 100 partite in Europa. Lo ha detto lui ieri in conferenza stampa. Certo, tra un allenatore e un giocatore si preferisce sempre il giocatore, anche se la caratura di Mourinho è a volte superiore a quella dei giocatori, proprio sulla capacità di far parlare di sé. Beh, insomma, a me pare che quest'anno loro abbiano iniziato facendo meno rumore, nel senso che Higuaín, ad esempio, un pochino di proscenio lo sta togliendo a Cristiano Ronaldo. Credo anche sì. che Mourinho stia studiando l'ipotesi di far giocare insieme Benzema e Higuaín. Tra l'altro Benzema è una partita che con Lione la sente come. Non mi stupisce sinceramente. Io penso anche che Cristiano Ronaldo a volte si prenda un filino di pausa, cioè nel senso che è uno che può segnare più o meno in qualsiasi momento, quindi tante volte penso che non è che si risparmi, però insomma, se la prenda un po' comoda. In questo momento il Real ha anche ritrovato un po' di cacà, ha trovato molte altre soluzioni. Credo che sia anche un lavoro che sta facendo Mourinho, cioè di non caricare tutto su Cristiano Ronaldo il Real Madrid, per non dare agli avversari comunque una sola chiave di lettura in attacco. Responsabilizzare molto Higuaín significa sgravare un po' Cristiano Ronaldo e magari dargli un pochino più di lucidità. Non che gli manchi, sinceramente. No, però diciamo che la sua produzione rispetto al passato, ecco, è meno dirompente, mettiamola così. Ottima analisi, direi. Grazie Fabio. A te Gigi, un saluto, a domani. Chiudiamo questo collegamento, lo riapriremo più brevemente domani. Tra i messaggi, questo Alessandro, la finale Emilia, dice: se io fossi Conte al posto dell'acqua benedetta porterei un po' di coraggio in più in campo, rischiando un bel tridente con Vucinic e Quagliarella. Quella dell'acqua, l'acqua benedetta domenica, in effetti non, insomma, se si comincia dall'acqua benedetta col Chievo, io credo che insomma, la Juve debba mirare ad altri traguardi, no? Forse, però non si sa mai. E d'altra parte ieri qualcuno mi ha sollecitato un commento alla corsa folle di Reja anni 66, lo dico con grande rispetto, e solidarietà nel covo, verso la curva laziale. Il commento migliore è arrivato via blog ed è firmato Marco Traversi. Ci tengo a leggerlo perché è il più bello che ho letto su tutti i giornali di oggi. Questo non è un giornale, ripeto, è un blog, ma in assoluto. Ricordando le polemiche di 2-3 settimane fa, questo ascoltatore ha scritto: Reia è corso dentro la cornice che lui stesso 15 giorni fa aveva definito marcia. Non mi sembra male, anzi, questa è una vera perla d'autore. Torniamo con qualche notizia. Certamente non è bella quella che arriva da Napoli, di questi due, però l'avete ascoltata nei notiziari di stamane. Due tifosi del Bayern accoltellati ieri sera a Napoli, con ferite per fortuna non gravi, ma insomma due persone colpite alle spalle che stavano camminando verso Piazza Garibaldi, piazza della stazione, quando sono stati appunto raggiunti da alcune persone a bordo di motorini che li hanno colpiti alle spalle con un coltello. Bene. E poi stamattina l'assemblea degli azionisti della Juventus, che è partita con dure parole di Agnelli dedicate ai suoi predecessori. Un bilancio intollerabile per la perdita, ha detto Agnelli, frutto della volontà di mantenere la Juve competitiva e che possa tornare a vincere come la storia impone. E va bene, ma poi la frase successiva è stata: il peggiore bilancio della storia della Juve, che accoglie l'investimento virtuoso per lo stadio, ma anche 4 anni di incapacità di rinnovamento della società sulla parte sportiva, che ha ingolfato il motore. Ma dopo questo è arrivato l'annuncio a sorpresa che quello in corso è l'ultimo anno in maglia bianconera per il capitano, per Alessandro Del Piero. Sentiamo Agnelli. Da un punto di vista della dirigenza mi sentirei più in imbarazzo nei confronti dei miei azionisti, dicendo: ho dato un contratto in bianco a chi che sia e hanno messo la cifra che volevano. Allora una serie di voi mi vengono a riprendere e mi dice: non mi sembra il modo di gestire la situazione. Credo che quello che dicevo prima, ad Alessandro abbiamo tanto, abbiamo qui la persona che ha stilato il primo contratto di Alessandro, che è il presidente Boniperti. Io ho avuto la fortuna di siglare l'ultimo e credo che dal presidente Boniperti a me c'è una storia, un amore infinito di Alessandro per i colori bianconeri. Da quel punto di vista lì credo che poi la decisione di come gestiamo il contratto sia meglio gestire noi le cifre invece che darle a terzi. Fatto sta ed è che in questa maniera certamente è sorprendente e non so quanto sarà concordata. Non posso immaginare che Del Piero venga licenziato via assemblea degli azionisti, quindi immagino che qualcosa, anzi tutto, lo sapesse, però rimane comunque, credo, abbastanza singolare questa uscita dell'enfant prodige di casa Agnelli. C'è Luca in linea da Parma, buongiorno. Volevo. Scusi, ma direttore ci ha già provato un altro ieri, la prego. Ok. Io volevo solamente fare una piccola osservazione relativamente al discorso della giornata scorsa di Serie A, dove ci sono stati pochi gol. Sì. Mio modesto parere, mi trovo concorde con lei sul fatto che sicuramente non è un merito delle difese, ma diciamo una pochezza degli attacchi. Tutto questo, secondo me, è basato su un principio fondamentale, che rispetto a 5-10 anni fa il livello medio, la qualità media dei calciatori si è abbassata. Conseguentemente, che ne risente in maniera maggiore è sicuramente la fase d'attacco. Io vedo giocatori che non sanno fare i movimenti in fase d'attacco. Ne cito uno per tutti, Krasic. Paragonarlo a un Causio che ha giocato nella Juventus, io vedo delle forti differenze. Beh, sia a livello qualitativo, lo credo, anche di Causio non è che ce ne stati tanti, esatto, però in quei periodi avevamo tantissimi giocatori che tecnicamente e tatticamente avevano delle doti e delle capacità per mettere in difficoltà le difese. Oggi secondo me è un discorso molto più atletico e ne fa le spese chiaramente l'aspetto sicuramente tecnico e di conseguenza tattico. Sì, è un peccato adesso, proprio da un punto di vista strettamente cronistico, è un peccato inferire su Krasic, perché domenica ha giocato in condizioni psicologicamente meno matte per un grave lutto familiare che aveva preso poche ore prima. È però sempre su Krasic un discorso più generale, insomma era arrivato era arrivato tra le fanfare, aveva illuso. Non siamo lontani dal caso Diego, era arrivato, certo, con molto clamore, aveva illuso le sue prime uscite, e poi invece mi sembra che si sia notevolmente smarrito. Cristiano ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Dica. Tralascio i complimenti per la trasmissione. Allora, niente, io mi ricollego al discorso che faceva prima a proposito della qualità generale del gioco e del fatto appunto della sterilità degli attacchi. Le volevo fare due domande, più che altro, che sarebbero due richieste appunto di parere da parte sua. Uno è il fatto che, a parte la sterilità degli attacchi, lei non nota che c'è anche un ritorno a un difensivismo esasperato, se vogliamo. Prima, io faccio esempio del mio Cagliari, che seguo costantemente. Noi abbiamo da 6-7 anni a questa parte, abbiamo sempre giocato con moduli offensivi, con minimo 3 giocatori di impostazione, più le punte, eccetera. Adesso ci ritroviamo contenti dal secondo posto, ovviamente, ad avere però un allenatore che, insomma, senza offesa, è un catenacciaro. E la seconda cosa è sempre a proposito di questo, e questo vale anche per tante altre squadre che ho visto, a iniziare per esempio al Cesena in Giampaolo e così via. La seconda era una domanda sulla coppia difensiva del Cagliari, Astori e Canini, italiani, giovani, oggettivamente bravi, perché i risultati parlano per loro. Oggettivamente abbastanza bravi, è vero, i risultati parlano per loro. Io sento questo difensivismo esasperato, però sinceramente non lo vedo. Vedo la cifra del calcio italiano dal punto di vista tattico è sempre stata come minimo la prudenza, questo sì, però da lì a un difensivismo esasperato non lo vedo, e sarebbe molto grave se oggi noi in Italia avessimo un calcio che si difende in maniera esasperata, visto che si difende così male, visto che di errori difensivi ne contiamo ma a grappoli in ogni partita e ad ogni livello, cioè sia tra le piccole squadre come il Cagliari, adesso al di là della classifica temporanea, sia tra le grandi, e quindi mi auguro che non sia così, ma mi pare proprio che non sia così, o perlomeno non nella misura di un tempo. Cristiano, grazie. Andiamo da Verona, da Andrea a Verona, buongiorno. Da Verona, sì. Buongiorno Gigi, volevo solo dire un paio di cose. Secondo me gli 0-0 sono stati anche abbastanza casuali. Sì, ci sono stati sei pali, è vero, sei pali nel pomeriggio. Sei pali, e poi una piccola vena polemica, non dimentichiamoci che il Chievo il gol l'aveva segnato, ma De Marco aveva fermato prima Terò per quel fallo su Pirlo, quindi magari un golletto in più durante giornate di campionato ci sarebbe stato. Sì. Comunque, a parte tutto, ritengo veramente che sia casuale, perché insomma di solito una media di 2 gol a partita, ecco, almeno ci sono, ecco. No, quindi, vabbè, ma infatti questa è stata un'eccezione. Non direi difensivi, non direi qua, non direi là, è successo senza far tanti processi al calcio italiano, ne avrebbe da far di altri processi il calcio italiano, visto anche quello che è successo a Napoli ieri sera, per cui mi incentrerei l'attenzione più che sulla scarsezza di gol, sulla scarsità di sportività da parte dei nostri tifosi, ecco, tutto lì. Buona giornata Gigi, grazie. Buona giornata a lei, Andrea. Vediamo se riusciamo a sentire qualche vigilia. Comincerei da quella dell'Inter, da quella di Ranieri in particolare. Sappiamo di dover affrontare una squadra molto abile, molto prolifica, è la più prolifica del campionato francese, con un buon gioco, giocano bene e hanno delle ottime individualità, per cui dobbiamo fare una partita di molta intelligenza, di qualità, e cercare di vincere naturalmente. Io sono convinto che ci riprenderemo, spero naturalmente da allenatore il più presto possibile, per cui dobbiamo soltanto aspettare che cambi questo vento di bufera, e questo cambierà soltanto continuando a fare quello che stiamo facendo con tutte le nostre forze. Questo era Ranieri. Due parole anche di Mourinho dedicate all'Inter e al suo difficile momento. Inter, tienes razón, soy interista, y tienes razón, no me gustan los malos resultados, pero como interista estoy siempre con el equipo, estoy siempre con el entrenador, estoy siempre con el presidente y con los jugadores, y soy siempre optimista. Por eso puede llegar un resultado malo, 2, 3, 4, 5, yo continúo siempre pensando que el próximo partido será un buen partido. Che nostalgia, eh? Dunque, non è, e contrariamente a quello che ha detto Ranieri, non è Lille la squadra più prolifica del campionato francese, ma è il Montpellier che ha segnato 22 gol. Ma insomma, comunque Lille è una che la sua parte la sta facendo. La vigilia anche di Mazzarri a questo punto, visto che c'è la galleria dei simpatici, io ci metterei a questo punto anche il nostro amico Mazzarri. A me mi esalta, mi gasa e mi dà ancora stimoli quando sento dire cose ingiuste, quando non si dà merito a quello che si è fatto, quando si pretende sempre di più senza a volte basi logiche. Questo dà fastidio, però ormai sono vaccinato e tanti anni faccio questo mestiere, so come è il gioco delle parti, so che il nostro mondo da una parte è anche bello per questo, perché si esalta in una partita un allenatore, addirittura una squadra, senza addirittura sia un allenatore che una squadra, e si crocifigge ad ogni sconfitta, no? E comunque sono contento che almeno quando c'è da essere crocifisso sia io l'allenatore, che la squadra si senta meno il peso della critica. A me va bene così. Adolfo da Campobasso si domanda, e domanda, anzi, perché la domanda è le chiedo perché tutto questo spazio a Mazzarri e Mourinho, e mai una parola ai galantuomini come Ventura, perché Ventura allena in me in una categoria inferiore. Se il Torino ha voluto tornare a giocare un derby, ha dovuto accontentarsi della Juve Stabia, no? Mi pare sabato scorso, e quindi è inevitabile che la vetrina sia diversa, e risalto anche. Mi sembra però, al di là delle battutacce, che Ventura stia facendo un lavoro così buono che può darsi che dal prossimo anno torni a esserci spazio anche per lui, che è una persona deliziosa, effettivamente, e per il suo Torino, perché insomma, per ora i risultati parlano abbastanza chiaro, no? Tutto poi sta a vedere se dura, perché il campionato di B è interminabile e non siamo nemmeno a un quarto, credo, siamo forse ad un quinto, ma certo che il gruzzolo che il Torino nel frattempo ha messo da parte è oggettivamente significativo. Stefano ha chiamato da Teramo, buongiorno. Buongiorno a tutti, una condivisione con lei. Io sono un tifoso della Lazio, ho visto domenica la partita, anche se torniamo un pochino indietro. Mi è molto piaciuto l'intervento che ha fatto Luis Enrique contro i nostri, tra virgolette, giornalisti, cioè che avevano chiesto subito dell'arbitraggio, se le era piaciuto o meno. E come cultura mi è piaciuta la risposta, come dire: no, io non parlo di queste cose, non me ne occuperò mai. Certo. E ho trovato anche interessante la stessa domanda fatta a Bojan, che viene dalla stessa regione, cioè dalla Spagna, e ha risposto la stessa cosa. Credo che sia una bella lezione che dovremmo prendere da queste persone, nonostante una sconfitta, insomma, bruciante all'ultimo minuto. Ho trovato molto interessante queste parole. E poi un'ultima cosa per lei: siccome non ricordo benissimo la trasmissione che lei faceva tanti anni fa, credo su Rai 3, che è una trasmissione bellissima, che mi auguro che lei abbia voglia di rifarla. Parliamo del presente, Stefano, parliamo della parte principale del suo intervento, della prima, che mi sembra molto bella, perché lei ha colto in effetti la distanza che ancora separa il nostro calcio dal calcio spagnolo, indipendentemente dalle distanze tattiche, dalle distanze tecniche soprattutto, che sono, mi sembra, ragguardevoli. C'è questa grande differenza, perché lei è tifoso laziale, io non sono certamente tifoso romanista, però insomma, credo che se uno avesse voluto appigliarsi a qualche decisione arbitrale domenica sera, ma anche negli ultimissimi minuti, che possono aver determinato quei 20 secondi in più o in meno la palla da una parte o dall'altra, ce n'era di materia. Io penso che Mazzarri avrebbe fatto un trattato, Mourinho si sarebbe incatenato ai pali, cose. Luis Enrique ha detto quelle cose e Bojan ha detto quelle cose. Io credo che quando si fa l'elogio del calcio spagnolo, perlomeno nella mia ottica, ci sia dentro anche questo, non soltanto il loro calcio migliore, e la cosa fa inferocire alcuni ascoltatori, no? Come diceva prima Tavelli, che in effetti si esibiscono anche con notevole eleganza su questo display, e mi spiace, perché a quel punto i messaggi diventano illeggibili, perché non è più un contraddittorio, diventa suburra, e non mi sembra il caso. Questo è il gap che ancora ci separa da una cultura sportiva superiore. Alessandro Torino, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Pochi mesi fa l'Inter era sul del mondo, era la più forte, era un patrimonio per l'Italia, per il nostro calcio. Io sono juventino, però godo quando le nostre squadre vincono in campo internazionale, e oggi è nello stato in cui la vediamo. Cosa manca alle squadre italiane per riuscire ad aprire dei cicli vincenti e stare sempre su, come fa il Barcellona, come fa il Manchester? È una questione anche di organizzazione della società, o è solo una maggiore maturazione del calcio degli altri paesi rispetto al nostro? Questa è una bella domanda, sinceramente non le so rispondere. Tanto questo ciclo mi sembra che sia durato abbastanza. Poi è stato un ciclo in Italia abbastanza fortunato, con qualche anomalia, diciamo, e più o meno sappiamo di che si tratta. Però poi è diventato anche un mini ciclo europeo, perché in realtà tutto si è ridotto a un anno o poco più. Ma insomma, è durato, è considerevolmente durato, come altri hanno durato in precedenza. Guardi che, non so, per esempio il Real Madrid, a parte lo scorso anno che è stato eliminato in semifinale da Barcellona, veniva da non so più quanti anni di fila che agli ottavi di finale era fuori con una ramazza. Quindi il Real non vince da anni il campionato, perché sono almeno tre di fila che glielo barba il Barcellona. Quindi grandi cicli anche all'estero, poi fino ad un certo punto. Certo, una presenza più costante ai vertici, sì. Questa enorme differenza rispetto al nostro non direi. Colpa abbastanza grave, stavo dimenticandomi della rubrica di Nicola Filippone. Andiamo a sentire il suo 18 ottobre. Sembra ieri. 18 ottobre 1989, andata degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. A San Siro, il Milan di Sacchi, detentore del trofeo, sfida nuovamente il Real Madrid, umiliato l'anno precedente in semifinale. Anche stavolta i rossoneri partono forte e dopo un quarto d'ora sono già sul 2-0, grazie alle reti di Rijkaard e Van Basten sul rigore. Conserveranno il doppio vantaggio fino alla fine e due settimane dopo, al Santiago Bernabeu, la rimonta del Real si fermerà all'1-0, realizzato da Butragueño a inizio ripresa. Il Milan si confermerà così bestia nera delle Merengues. In seguito eliminerà i belgi del Malins e il Bayern Monaco, per poi sfidare e battere nella finale di Vienna il Benfica di Eriksson. Approvato nel frattempo dall'assemblea degli azionisti della Juventus la ricapitalizzazione per la bellezza di 120 milioni di euro. Ho dato un'occhiata in anticipo al sembra ieri di Nicola Filippone di domani, e visto che stanno passando momenti molto difficili, anche esilaranti, i triestini, con questa nuova delirante gestione, no? che mi sembra stia superando quella del celeberrimo Prodetto nell'otto, insomma domani potrebbero, i triestini in ascolto domani si rifaranno un po' la bocca. Due ascoltatori velocemente a chiudere. Graziano da Parma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Pronto? Dica. Buongiorno. Senta, tanti complimenti per Filippone ieri sul servizio per Beppe Viola. Sì. Volevo riallacciarmi un attimo al discorso del CDA della Juventus. L'avviso sulla mancata di conferma, chiaramente, cioè sulla di Del Piero. Sì. Penso che era nell'aria. Sarà stato sicuramente, come ha detto lei, d'accordo con Alessandro anche il presidente Agnelli. No, bisogna vedere se era d'accordo. Questo vediamo, lo scopriremo vivendo. Graziano, ma io qualche dubbio ce l'ho. Dica però in sintesi veloce. Da tifoso juventino, dopo i 60 anni si commuove sempre un po'. All'annuncio dell'addio al calcio di Del Piero, qualcosa ho sentito, perché è da 18 anni che lo vedo. Uh-huh. Per me è stato la bandiera, uno dei più grandi giocatori che abbiamo vestito in questa maglia. Secondo me però quest'anno bisognerebbe cercarlo di sfruttare anche per quelle ultime doti che ha, perché quando c'è in campo lui qualcosa si vede avanti, quando non c'è in campo, se non fa gol Marchisio non fa gol nessuno. Questa è la mia idea. Sì, devo dire che questa l'apparizione in campo è indubbiamente qualcosa significa. Questa apparizione in contumacia, questa evocazione di stamattina all'assemblea è stata molto, ma molto, ma molto sorprendente e sinceramente qualche sviluppo significativo anche a breve non mi sentirei di escluderlo. Chiedo scusa a Renzo dalla provincia di Vicenza che interverrà certamente domani, questo è un impegno che ci prendiamo sin d'ora. Grazie a Fabio Cantadoni in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.